in primo piano. Guten Morgen, Sonnenschein, dieser Tag bleibt dir verborgen. Guten Morgen Italia. Insomma, visto che il monito di Mario Draghi arriva proprio dalla Germania, ci divertiamo purtroppo dando però delle notizie che non sono positive per il nostro paese. Allora, per questa mattina io ringrazio intanto Valerio Rocchetti in regia, un saluto dalla redazione, da Elisabetta Fiorito. Abbiamo collegata Ivana Pisciotta, vice capo redattore dell'AGI. Buongiorno Ivana. Ciao, buongiorno a tutti. E ovviamente responsabile economico, perché di questo si parlerà soprattutto in questa rassegna stampa. Andiamo a vedere i titoli dei giornali. Il Sole 24 Ore: l'Italia faccia più riforme per sbloccare gli investimenti. Il presidente BCE: incertezza e troppe tasse hanno determinato il calo del PIL. Gli stati cedano sovranità. Questo è il richiamo di Draghi. Renzi risponde: d'accordo con il governatore, nessuna lettera, BCE in arrivo. Questo è il Sole 24 Ore. La sferzata di Draghi: Repubblica, riforme insufficienti, nasce il nuovo Senato. La BCE: gli stati cedano sovranità. Renzi: a fondo sacrosanto. Bicameralismo addio, voto finale, scontro grasso Movimento 5 Stelle. Voto finale, voto il primo sì di una riforma costituzionale. Ci vogliono ben altre tre letture. Richiamo di Draghi all'Italia. Il Corriere della Sera: se gli stati non fanno le riforme, sovranità all'Europa. La sferzata di Draghi, il secolo XIX. Draghi commissaria Renzi, l'ultimatum, Libero. Draghi sfiducia Renzi, il Fatto Quotidiano. La Padania: sovranità limitata, perché questo poi è il tema politico. E questi sono i giornali che aprono ovviamente con questa notizia. Le altre aperture sono proprio sull'Alitalia. Il Giornale: aeroporti bloccati, se non lavorano licenziateli. C'è l'accordo con Etihad, ma i dipendenti all'Italia ricattano e si mettono in malattia. Draghi avvisa Renzi: se non fate le riforme alla svelta, ci penserà l'Europa a commissariarvi. Il Messaggero: all'Italia caos voli dopo l'intesa. Ovviamente il Messaggero è interessato anche all'aeroporto di Fiumicino, più da vicino. Infatti un sottotitolo: valanga di certificati medici per sbloccare Fiumicino. L'azienda intervenga il garante. Abbiamo caos all'Italia anche sul Giorno: è sabotaggio, annuncio shock dei dipendenti di Fiumicino, tutti malati contro l'accordo. Poi sempre su Alitalia, il Manifesto: vola coi lupi. Oggi Alitalia firma con Etihad, ma a Fiumicino i dipendenti si ribellano, pronti ad usare certificati medici in massa per paralizzare lo scalo. Poi abbiamo Italia Oggi: la volontari già quota 250, il numero di istanze di riemersione presentate anche in mancanza di un testo di legge in molti casi è un modo per dribblare l'accertamento fiscale in arrivo, cioè praticamente sono le istanze volontarie che si consegnano alle agenzie delle entrate. Invece sui cristiani costretti alla fuga, ricordiamo che questa notte Obama ha autorizzato i bombardamenti aerei in Iraq e praticamente intanto si iniziano con il lancio di aiuti umanitari. Su questo apre Avvenire, il quotidiano della CEI: Iraq, costretti alla fuga 100.000 cristiani cacciati dai jihadisti. Il Papa: il mondo si muove. E anche il Foglio: il genocidio degli angeli. C'è un articolo di Giulio Meotti che poi leggeremo. Allora andiamo subito al nostro giornale Il Sole 24 Ore, che apre proprio su Draghi. Monito di Mario Draghi all'Italia: il calo del PIL, ha detto ieri dopo aver presieduto il Consiglio BCE, è legato essenzialmente all'incertezza prodotta dalle mancate riforme. Paesi come l'Italia hanno bisogno di tasse più basse, mentre gli investimenti sono fermi. Sul terreno delle riforme strutturali, ha ribadito il Presidente della BCE, occorre che gli stati rinuncino a una parte della loro sovranità. Il premier Renzi, totalmente d'accordo con Draghi, nessuna lettera della BCE in arrivo. Chiediamo subito a Ivana Pisciotta dell'AGI. Ivana, è stata un'ulteriore doccia fredda dopo il dato negativo del PIL a meno 0,2%? Beh, comunque sicuramente è stata una doccia fredda, però non è certo la prima volta che Draghi sprona i governi europei a intraprendere il percorso delle riforme e a spiegare quanto siano importanti per, diciamo, per agganciare questo famoso treno della ripresa che sembra molto più lento, soprattutto per noi. E ieri Draghi sì, ha fatto questo, diciamo, questa sferzata, come leggo dai giornali, però insomma questo va considerato anche che questo appello, questo monito, secondo me arriva proprio, diciamo, alla vigilia oggi del voto in aula al Senato delle riforme, insomma, e quindi è anche un appello proprio, secondo me, del governatore al Parlamento, perché non si lascia scappare questa occasione, insomma. Quindi ricordiamo che oggi ci sarà il primo sì all'abolizione del Senato elettivo, perché il Senato diventerà, se queste riforme andranno in porto, ricordiamo, una riforma costituzionale, quindi ha bisogno di altre tre letture, ci sarà praticamente il primo sì allo snellimento. Allora, quella spinta da Francoforte, scrive Donato Masciandaro sul Sole 24 Ore, l'analisi, riforme strutturali per avere mercati più competitivi e stati più efficienti, è l'unica spinta possibile per ritornare a crescere e dare un senso alla politica monetaria espansiva che la Banca Centrale Europea ha deciso di proseguire, ma non di accentuare, perché le condizioni monetarie per tornare alla normalità ci sono. Peccato che manchino tutte le altre politiche economiche. Anche Tonia Mastrobuoni nella Stampa: la ripresa debole, fragile e disomogenea c'è, ma nei prossimi mesi potrebbe risentire negativamente anche delle tensioni geopolitiche in Ucraina, in Iraq e in altri focolai attorno all'Europa, oltre che dell'anemia della domanda interna. E Mario Draghi lo ammette: già ora si osserva un rallentamento della crescita dell'Eurozona. Il presidente della BCE è preoccupato per l'evidente disallineamento dei ritmi di recupero del secondo trimestre. Ma la diagnosi è chiara: se alcuni paesi come la Spagna vanno meglio di altri, come Francia e Italia, è perché hanno fatto le riforme strutturali. Andrea Bonanni è la seconda volta su Repubblica. E Mario Draghi suona la campanella di fine ricreazione per il governo italiano. La prima fu da governatore di Banca Italia. Quindi ecco, qui poi c'è anche un'intervista su Repubblica di Luca Pagna e Matteo Zoppas: gli imprenditori vogliono meno tasse, più accesso al credito e stop agli sprechi. Ieri c'è stato anche l'intervento di Carlo Cottarelli, e anche su tutti i giornali se ne parla. Scure sulle SPA pubbliche, 2-3 miliardi di risparmi, esuberi e tagli di stipendi. Insomma, Ivana, qualcosa si fa, però sembra sempre poco. Ricordo intanto, prima che mi rispondi, il numero per i nostri sms: 349-238-6666. Insomma, qualcosa si fa, però sembra sempre che sia troppo poco. Perché? Perché appunto l'altro ieri l'Istat ha certificato il fatto che l'Italia, diciamo, il PIL dell'Italia è ancora un segno meno per un secondo trimestre consecutivo, quindi siamo in recessione tecnicamente e quindi bisogna fare qualcosa. E comunque, diciamo, per il momento hanno escluso totalmente una manovra aggiuntiva per il 2014, però Renzi proprio ieri sera ha già fatto sapere che ci sarà una manovra di tutti i tagli alla spesa per 16 miliardi per il 2015, in modo tale comunque da riportare il deficit PIL sotto il 3%. Insomma, comunque voglio dire, nei prossimi mesi, insomma, voglio dire, dovremo stringere un pochino di più la cinghia sempre sui tagli alla spesa, insomma, voglio dire, non sarà facile. Ecco, ecco, ma lo commissariano Cottarelli, commissariano il commissario o no, no? Perché lui ha detto che lui è al lavoro e quindi rimane al lavoro. Ma Cottarelli, io diciamo proprio qualche giorno fa, diciamo guardando un po' le carte e i decreti di nomina, abbiamo dato una notizia del fatto che comunque la nomina di Cottarelli è in scadenza. Ha una scadenza limitata, adesso non ricordo esattamente quando, comunque tra poco, a ottobre mi sembra. Quindi se diciamo il governo, come ieri vi ha ricordato Padoan, è diciamo l'unico titolare a parlare appunto dei tagli alla spesa, non sarà bene la linea di Cottarelli, decideranno diversamente. Comunque il problema non è Cottarelli o non Cottarelli, il problema è dove andare a tagliare e diciamo tagliare chirurgicamente tutti i tagli alla spesa, insomma, che come sappiamo diciamo ereditiamo un passato fatto di tanti sprechi e di spese diciamo indirizzate male, cioè tutto il capitolo di riforme che questa grande parola delle riforme insomma alla fine diciamo dovrà portare a qualche risultato, soprattutto anche proprio in termini di snellimento delle procedure, di velocizzazione e anche quindi proprio di risparmi, ecco. Sì, ricordiamo che purtroppo c'è stato un abuso della decretazione d'urgenza negli ultimi anni proprio per snellire i lavori parlamentari bloccati, no, con le navette, quindi tra una prima e una seconda lettura alla Camera e al Senato. Allora, ci sono degli editoriali ovviamente contro il Presidente del Consiglio, la ricreazione è finita, scrive Franco Bechis su Libero, divertenti le slice, simpatiche idee alle bamboline di piazzare in lista e nei posti che contano, quindi sentiamo insomma un Bechis, belli comizi e gli slogan, però ora ragazzini, se volete continuare a giocare così, per favore fate un passo indietro, lasciate i comandi della nave a chi sa manovrare e continuate pure nella vostra stanza dei balocchi con le vostre splendide figurine. Dalla Banca Centrale Europea è arrivato una delle più cocenti bocciature dell'Italia e del governo italiano che si ricordi negli ultimi anni. Maurizio Belpietro, sempre sul Libero, scrive: carissimo Matteo, mi ricordi Schettino, basta inchini agli elettori. Non so se avete presente quei bambini che, presi in flagranza di marachella, insistono a dire di non aver messo le mani nella marmellata. Ecco, il governo mi pare si stia comportando esattamente come ragazzini che negavano l'evidenza. In preda all'estasi, scrive Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano, in preda all'estasi comunicativa che gli italiani hanno riconosciuto con Berlusconi, Matteo Renzi ha salutato i telespettatori della trasmissione di La 7 in onda con "gli italiani vadano in vacanza belli allegri", gaff memorabili nella testa delle moltitudini che in vacanza non ci possono andare, è risuonato l'originale di Dario Fo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. Ecco Ivana, insomma c'è una critica da parte di quotidiani, ovviamente come Il Fatto, come Libero, che rappresentano un po' l'opposizione, proprio su questa politica di annunci fatta di slides e anche forse di questa inesperienza del governo, questa vena giovanilistica, poi alla fine fa capire che magari non si è poi preparati al peggio. O no? No, le critiche che muovono al governo Renzi è che appunto diciamo ha una politica di grandi annunci, diciamo i numeri, come appunto dicevo prima del PIL, ma comunque anche altri indicatori insomma di fiducia, del clima di fiducia, cioè dei consumatori, insomma non è che proprio, ecco, diciamo siamo fuori dal tunnel come si pensava qualche tempo fa, anzi nel tunnel ci siamo e siamo ancora nel buio pesto, quindi credo che la critica sia proprio mossa al fatto che ancora non diciamo ancora non siamo in una fase di ripresa economica, nonostante sembrava fosse dietro le porte. Certo, non è che diciamo le cose si risolvano una bacchetta magica, però comunque sembra che ne siamo ben lontani, perché comunque insomma non Ripeto, appunto, non è che per far quadrare i conti, insomma, e per far ripartire gli investimenti bastano gli annunci, bisogna pure comunque andare avanti e fare qualcosa, ecco, di più tu, concreto. Tu che ti occupi d'economia, no? Questo, il Jobs Act, il decreto PA, che poi è diventato un dramma con quota 96, tutti le cose che sta mettendo insieme Renzi, quando poi alla fine si vedrà un pochino il risultato di queste cose, cioè quando cominceranno a vedere gli italiani che in effetti hanno un buon modo per far riprendere l'economia, capito? Perché noi vediamo questa politica di annunci, questi decreti, poi però la situazione economica è sempre un disastro. Allora, io credo che i provvedimenti non è che hanno un risultato immediato, che la sera vengono varati, la mattina dopo si hanno gli effetti. In realtà diciamo, gli effetti sono più a lungo raggio, nel senso che il problema dell'Italia è quello che non ripartono gli investimenti e la domanda interna è debole. Allora si cerca di stimolare i consumi delle famiglie soprattutto, ma e di far ripartire gli investimenti, e queste riforme non è che sono fatte così perché sono interessanti e belle, ma sono fatte con questo obiettivo. Ora, vedere se questo obiettivo viene perseguito, questo purtroppo io non lo so. Non sappiamo se questo sia sufficiente, però qualcosa, diciamo, di incisivo si deve fare. Per questo Draghi ieri ci è andato giù pesante, perché comunque, appunto, bisogna non allentare la presa del risanamento, ma neanche, diciamo, ripiegarsi su se stesse con politiche di consolidamento di risanamento dei conti. Draghi dice anche che, appunto, è il momento di agganciare questo famoso treno alla ripresa, e quindi sprona a fare di più, proprio perché così i risultati si possono ottenere prima. Insomma, abbiamo capito, la situazione è grave e quindi Draghi era intervenuto. Allora, diamo la linea alla regia, poi subito dopo gli sms dei nostri radioascoltatori. In primo piano. E allora leggiamo, i radioascoltatori chiedono proprio una cosa fondamentale: ma dov'è la magistratura? E qui entriamo nella seconda parte della nostra rassegna stampa, e quello che praticamente titolano alcuni giornali sul caos all'Italia: i certificati medici presentati dai dipendenti all'Italia sono per la maggior parte evidentemente fasulli, nel senso che la malattia non c'è. Quindi cosa certifica il certificato? Dice un nostro radioascoltatore, molti hanno chiesto questa domanda. Indagate i medici oltre ai dipendenti. Poi alcuni: moneta, debito, pareggio di bilancio, ma dove vogliamo andare? Euro, zona, è solo miseria. Lasciate governare la nave a chi? A quelli che ci hanno portato a questo punto col debito pubblico, dice Giovanni da Modena. Lo sapeva Renzi quello che ereditava, cribbio, dice Teresa Giaggero da Genova, che però dice anche: Renzi è pericoloso, lo dovete fermare. Draghi addirittura indicato come un burocrate. Anche Sasha ci chiede: ma i medici che firmano i certificati dei dipendenti dell'aeroporto, esiste in Europa un paese che accetti con rassegnazione una cosa simile? Quali sarebbero queste riforme strutturali, chiede Anna. Renzi in 3 mesi non può risolvere problemi di decenni. Allora, insomma, abbiamo visto che quello che fa indignare soprattutto le persone, i normali cittadini, è proprio questo fatto che i dipendenti all'Italia si sono messi in sciopero. Leggiamo Alessandro Sallusti sul giornale: i dipendenti all'Italia non ci stanno ad essere salvati, o forse non ci stanno a lasciare la comoda posizione di dipendenti pubblici, la semi-privatizzazione italiana era appunto all'italiana, e andare sotto un padrone vero, gli arabi di Etihad, che pretendono di stare sul mercato con regole di efficienza che il mercato impone. Insomma, all'Italia oggi, con la firma della cessione, potrebbe diventare un'azienda normale e i suoi dipendenti lavoratori altrettanto normali nei diritti e nei doveri. Su quasi 12.000 persone, 10.000 manterranno il posto, poco più di 1.600 entreranno in mobilità con tutte le garanzie e i paracadute del caso. La risposta dei dipendenti aizzati dai sindacati, in particolare dalla CGIL, è durissima. Alitalia nel caos, pronti certificati medici, il messaggero di massa in Alitalia, Fiumicino rischia il collasso proprio nei giorni più intensi dell'estate, mentre viene annunciato per oggi la firma dell'accordo con Etihad e dopo lo sciopero che ha provocato il blocco dei bagagli in aeroporto, la compagnia chiede l'intervento dell'autority che annuncia sanzioni perché viola le regole. Nella nuova Alitalia, Montezemolo verso la presidenza dopo l'addio di Colaninno. Caos Alitalia il giorno, è sabotaggio e anche qui praticamente commento di Giuseppe Turani: al peggio non c'è mai limite, quando si arriva in fondo si può ancora scavare un po', è quello che stanno facendo i dipendenti di terra dell'Alitalia. Non contenti di aver abbandonato migliaia di bagagli sulle piste, di averci esposti a una figuraccia internazionale che ha pochi precedenti, forse nessuno, adesso, accordo con Etihad vicinissimo alla firma, annunciano che manderanno certificati medici in massa e si asterranno quindi dal lavoro. Ecco Ivana, quello che chiedo però ai nostri radioascoltatori, esatto, perché non si interviene a questo punto sui medici? Perché poi questi certificati medici li devono firmare i medici. Certo, allora, innanzitutto sono già, diciamo, ieri hanno già fatto sapere sia il garante dei scioperi sia anche il ministro Lupi che non permetteranno, dicono, una cosa del genere, che insomma è veramente inaudita. E leggevo ieri che appunto i medici di famiglia, l'associazione dei medici di famiglia, ovviamente lo ribattono: noi se diciamo una persona, un tuo assistito ti telefona e ti dice che mi sento male, insomma non è che possono ovviamente negare questa cosa. In realtà che dovrebbero arrivare i medici dell'INPS a casa e fare dei controlli, come succede insomma dappertutto, e il fatto che questa agitazione e questa protesta che hanno preannunciato i dipendenti sa molto di provocazione, per quello ovviamente è una cosa intollerabile, soprattutto nel primo weekend di esodo importante per le vacanze, e dopo quello che hanno fatto nei giorni scorsi del Fiumicino per i bagagli, di attese anche di due o tre ore per ritirare la propria valigia, insomma non è stata una cosa molto molto simpatica. E comunque le sanzioni sono previste, cioè il garante della privacy potrà intervenire adesso il ministro, potranno precettare queste agitazioni, non so poi che cosa succederà oggi, nel senso che dipenderà molto dal senso di responsabilità dei dipendenti. Certo, mi rendo conto che proprio simbolicamente oggi il giorno della firma con Etihad, stamattina c'è l'assemblea degli azionisti e decidere sull'aumento di capitale, poi appunto la firma dell'accordo con la compagnia emiratina, non è, fa paura, perché agita un po' lo spettro degli esuberi e del tracollo che i dipendenti all'Italia sono abituati e hanno assistito parecchio negli ultimi anni, quindi ricordiamo che dire questo. Bisogna però anche dire che le altre compagnie aeree sono fallite, la Swiss Air eccetera, si sta facendo di tutto per salvare questa compagnia aerea, e poi c'è questa bellissima figuraccia che, ricordiamo, si associa anche a un'altra figuraccia, quella del Teatro dell'Opera senza orchestra, la Bohème a Caracalla, cioè con un sold out, è stato veramente una figuraccia anche lì. Allora, su Repubblica, pagina 7, interviene il capo della rivoluzione. rivolta. Noi addette ai bagagli, azzerati senza colpe, agitazione ad oltranza. 4 giorni di sciopero bianco e ora certificati di malattia, chiedono Federica Angeli e Flaminia Savelli, una forma di protesta definita intollerabile. Stiamo solo applicando alla lettera, insieme ai miei colleghi, il contratto. A parlare è il capo della rivolta degli addetti ai bagagli di Fiumicino, che chiede di farlo in forma anonima. Se parlassi con nome e cognome sarei messo alla porta domani. Siamo soli, anche i sindacati ci hanno voltato le spalle. Il suo nome nella lista degli esuberi, sì, con questo accordo Etihad sono finito in cima alla lista degli esuberi ingiustamente. Sono stato assunto nel 95, molto prima dell'accordo tra Alitalia e CAI. Con i successivi passaggi non mi sono stati riconosciuti anni di anzianità. A 45 anni sono l'unico lavoratore in famiglia, ho 2 bambini. Paralizzare così un aeroporto le sembra giusto? Noi non volevamo paralizzarlo, ma far capire ad Alitalia che non devono tagliare noi, che svolgiamo il servizio a terra e siamo le braccia della compagnia. Il punto è che noi addetti ai bagagli siamo i meno raccomandati e meno tutelati, e così ora paghiamo il prezzo più alto. In Italia funziona così. Ha già inviato anche lei il certificato di malattia? Ancora no, ma è una misura estrema. Sappiamo che ieri sera è arrivata una nota ufficiale in cui l'Italia ci garantiva che sarebbero state rispettate tutte le garanzie sul lavoro, ma è solo una manovra per tranquillizzarci e non farci andare avanti, mentre noi siamo decisi a continuare a farci ascoltare. Come? Ieri avevamo chiesto un incontro con i vertici ENIAC e ci hanno ignorati. Dovremmo applicare lo stesso rigore alle regole, ad oltranza, quindi ci sarà il caos. Allora, in questo caso noi comprendiamo che una persona è nella lista degli esuberi, comprendiamo, ci saranno però intanto gli ammortizzatori sociali, Ivana, ma poi a parte questo il problema è che se si sciopera e si fa questo tutto questo bagarre, il rischio è che la compagnia proprio fallisca e tutti vadano a casa, e questo forse che non entra nella mente di questi dipendenti, o no? Certo, comunque il nodo è che vanno garantiti comunque servizi pubblici essenziali. Questo adesso non so, strumenti di legge, però comunque ci sono degli strumenti per garantire. Non so adesso come interverranno, se il garante degli scioperi sia Lupi. Certo, il certificato di malattia è un po' una cosa un pochino vigliacchetta, perché non sei in sciopero, però insomma non è, ricordiamo che se si è in sciopero si perde lo stipendio, si perde una giornata di stipendio, no? Mentre così. Allora, a questa c'è una risposta sul Sole 24 Ore, del nostro quotidiano, in un articolo di Laura Serafini. Gli arabi e i manager anglosassoni di Etihad ormai pensavano di averle viste tutte su Alitalia, e invece il colpo di coda è arrivato quando ormai l'accordo è alle battute finali. Da qualche giorno il personale di terra di Alitalia, in particolare gli addetti allo smistamento bagagli, sta attuando uno sciopero bianco all'aeroporto di Fiumicino come protesta per quell'alleanza che nel fine settimana preannuncia l'apoteosi. Certificati medici in massa sono stati presentati alla società, lasciando preannunciare la paralisi del principale scalo italiano nel weekend più caldo d'estate per le partenze. L'autorità garante per gli scioperi però garantisce coloro che hanno causato tanti disagi pagheranno il conto. L'astensione di massa preannunciata, spiega in una nota diffusa ieri, sarebbe un vero e proprio attentato ai diritti dei cittadini utenti, in sfregio alla legge che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero. Già in mattinata l'autorità si era mossa per chiedere all'Alitalia informazioni sui responsabili dello sciopero bianco. Non sarebbe tollerabile che, al solo fine di aggirare le norme perfettamente conosciute dai lavoratori, mi riferisco in particolare alle franchigie del periodo estivo, le quali garantiscono a tutti la mobilità nel mese di agosto, sottolinea il garante, si ricorresse ad uno strumento potenzialmente fraudolento. Al riguardo aggiunge, si ricorda che esistono precedenti casi in cui l'autorità di garanzia è efficacemente intervenuta per sanzionare pesantemente questa anomale forma di protesta. Infine si fa presente che l'autorità, di fronte a un'eccezionale assenza per malattia, segnalerà ogni abuso alla Procura della Repubblica per gli eventuali seguiti di competenza. Anche il ministro per i trasporti Maurizio Lupi ieri è sceso in campo per stigmatizzare la protesta a Fiumicino. Ho definito vergognosi e incomprensibili gli scioperi bianchi di questi giorni, che hanno creato gravissimi disagi ai turisti italiani e stranieri nei giorni di massima affluenza. Quindi ricordiamo questo articolo di Laura Serafini sul Sole. Ecco, Ivana, quello che dicevamo è una frode, quello che loro stanno facendo è una frode agli italiani. Ci fanno fare una brutta figura e soprattutto non capiscono che poi vanno anche contro loro stessi. È questo che non si riesce a capire. Sì, in effetti diciamo non è che per l'Italia non ci sono molte soluzioni, diciamo, per salvarla dalla bancarotta finale. Quindi un'iniezione di capitale di risorse degli Emirati Arabi, un aumento di capitale deciso dagli azionisti, dà una boccata di ossigeno. Adesso io aspetterei ovviamente di vedere sempre tutti i termini e i dettagli dell'accordo, perché oggi appunto si firma e poi saranno, però mi sembra un po' una strada obbligata. Questi lavoratori dovrebbero comunque, a prescindere se sono d'accordo o non sono d'accordo, questa forma di lotta che allora hanno scelto, la pagheranno come al solito gli utenti italiani, la pagherà l'Italia, è quello che sia che sia fondato o no un diritto di una categoria a una protesta, alla fine comunque coinvolge e crea disagio per tutti. Questo secondo me non è giusto, soprattutto per chi svolge un lavoro che è utile al cittadino e all'utente. Poi in un'Italia in crisi bloccare gli aeroporti è veramente miope. Allora, ricordiamo un pochino di SMS, medici, un nome che equivale per tutte le categorie. Favori, favori, favori, perché codardi, questo ce lo dice Emma, licenziare questi farabutti romani dell'Italia. Ora non è che sono solo romani, poi considerarli farabutti direi di no. Esagerato. Spero che Etihad si ritiri, così falliscono e perdono il lavoro. Noi non speriamo questo. Il medico, prima di mettere un certificato, deve visitare accuratamente il soggetto e non per telefono, così come fa a commettere un illecito. Siamo stufi di mantenere dipendenti all'Italia. Maurizio. Insomma, abbiamo visto, ci sono varie cose. Noi intanto ringraziamo di essere stata con noi, Ivana Pisciotta. Grazie a voi e buona giornata. Vice caporedattore dell'AGI, responsabile economico dell'Agenzia Italia. Grazie Ivana, e do la linea alla regia. In primo piano. Vi segnalo un editoriale, un articolo editoriale di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Quei burocrati che vogliono costare come i gioielli una Porsche, come è venuto in mente ad una delegata dei dipendenti di Montecitorio per spiegare i mugugni contro i tagli, di paragonare la macchina burocratica della Camera a un'auto di lusso che, come tutte le cose pregiate, è giustamente costosissima, si chiede Gian Antonio Stella. La signora Anna Danzi, che si riconosce in una delle 11 sigle sindacali di Montecitorio, non poteva scegliere giorno peggiore per schiaffeggiare gli italiani. Proprio nelle ore in cui l'Istat comunicava che siamo ancora in recessione e che l'uscita dalla crisi si allontana di nuovo, il nostro lavoro, spiega Repubblica, dice Gian Antonio Stella, richiede un'elevata professionalità. Come tutte le cose pregiate, come una Porsche, ha un costo. Ora io non vorrei dire nulla, però sono paragoni arditi, lo dice Gian Antonio Stella. Vi consiglio anche di leggere questo articolo molto lungo editoriale, gli stipendi a confronto, il limite imposto agli onorari equivale al PIL pro capite di 9 cittadini friulani o di 17 calabresi, e quindi doppiati i vertici dell'ONU. Un consigliere parlamentare può arrivare a prendere quasi 200.000 euro in più del segretario Ban Ki-moon. Cosa dobbiamo fare in Italia? Cioè, bisogna tagliare, mi sembra, questi sprechi. E ricordiamo questa apertura di Italia Oggi: le istanze di voluntary disclosure, che anche in assenza di legge continuano ad arrivare sui tavoli tavoli dell'Agenzia delle Entrate. Secondo le informazioni raccolte da Italia Oggi, al momento ne sono arrivate circa 250. Spesso istanze presentate in via preventiva, quando cioè il contribuente teme di essere in odore di verifica fiscale e dribbla il possibile accertamento presentando spontaneamente agli uffici dell'amministrazione l'autodenuncia. Insomma, siamo talmente tanto terrorizzati dal fisco da prevenire, almeno così è meglio che curare. E parliamo invece del genocidio degli angeli, l'apertura del Foglio di Giulio Meotti. In Iraq è caccia agli Yazidi, la religione più tollerante e antica del Medio Oriente. Dopo i mongoli è lo Stato islamico a passarli a fil di spada. Non credono all'inferno, gli islamisti ne stanno preparando uno per loro. Due giorni fa il Daily Telegraph ha titolato così: morte di una religione. Di una religione, perché lo yazidismo, che assieme all'ebraismo è la più antica religione del mondo, è sul punto di scomparire. Dopo i cristiani di Mosul, lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante ha preso di mira gli Yazidi, i dualisti maledetti, come ebbe a definirli il Tamerlano, il turco convertito all'Islam che ne passò a migliaia a fil di spada. Insomma, un detto yazida oggi recita: eravamo 17 milioni, oggi siamo 700.000. Molti sono fuggiti all'estero e 40.000 adesso sono asserragliati nella montagna irachena di Sinjar. Allora, Iraq poi invece, l'Avvenire: costretti alla fuga 100.000 cristiani. Segnalo sul Corriere della Sera un'intervista su questo tema a Bagnasco, al cardinale Bagnasco. E invece l'editoriale di Avvenire di Riccardo Radaelli: ISIS, il silenzio e le colpe, la tragedia di cristiani e altre minoranze, non è più tempo di calcoli, alchimie geopolitiche, le considerazioni strategiche su vinti e vincitori dinanzi all'ascesa in Iraq delle milizie jihadisti, lasciamole nei cassetti. Fino a pochi giorni fa tanti analisti ritenevano che per i curdi la catastrofica sconfitta subita dalle forze armate di Baghdad contro i guerriglieri di ISIS fosse una benedizione, ma anche ora i Peshmerga, le sperimentate truppe curde sono irrotte, rischiano di perdere altro terreno. Contro questi chedisti più fanatici e crudeli della stessa Al-Qaeda, contro questa lebbra che infetta il mondo islamico e deturpa il Medio Oriente, specie in Iraq e in Siria, è oggi tempo di fare chiarezza, di agire, uscendo dalla palude di ambiguità, scarso interesse e calcoli di convenienza. Andiamo alla vicenda, sempre per stare agli esteri, delle due ragazze, delle due cooperanti rapite in Siria, Vanessa e Greta, scrive Il Messaggero, con la scorta di miliziani conosciuti su una chat. Il gruppo che aveva accompagnato le ragazze nei precedenti viaggi non erano con noi. Possibile un contatto con un certo Ali. Chi ha portato Greta Ramelli e Vanessa Marzullo in Siria? Chi le scortava da Aleppo prima che venissero rapite da un gruppo di uomini armati? Il primo viaggio delle due volontarie lombarde in terra siriana è del marzo 2014, è durato circa 5 giorni, viene riferito da alcuni attivisti. Poi un secondo di 15 giorni. Nei precedenti viaggi però erano sempre stati accompagnati da elementi della brigata di martiri di Idlib, una katiba fidata con forte presenza nella zona che si estendeva fino ai sobborghi di Aleppo. Ma un loro referente, un contattato dal Messaggero, riporta che non sapeva della presenza delle ragazze in Siria in questi giorni. Quindi, insomma, bisogna fare luce su chi ha accompagnato queste cooperanti italiane. Certo è che bisogna anche dire: se si va in un paese purtroppo in guerra, questo è quello che si potrebbe rischiare. Dal parmigiano alla salsiccia, sempre per stare agli esteri, così Putin colpisce l'Italia. Il boicottaggio russo all'import può costarci 162 milioni. Segnalo l'articolo di Sandra Riccio sulla Stampa, ma se ne occupano tutti i quotidiani. Scatta la seconda tornata di controsanzioni decise da Putin. Da ieri pomeriggio i confini russi saranno chiusi a quattro categorie di prodotti agroalimentari in arrivo dall'Europa e dall'America, come anche da Australia, Norvegia e Canada. Lo stop riguarda carne fresca lavorata, latte e formaggi, beni orticoli freschi e secchi, pesce. E questo chiaramente procurerà verso il Made in Italy, nella stima dell'ICE, il danno di una quota del 25% dell'export del Made in Italy verso la Russia. Ecco, insomma, sono sanzioni che, ricordiamo, sono state decise a livello internazionale, che però purtroppo, essendo un export, quello dell'Italia verso la Russia, un export molto importante, nel 2013 ha totalizzato 10,8 miliardi di euro, e l'agroalimentare ha raggiunto sempre l'anno scorso i 706 milioni di euro, sono danni ingenti per il nostro paese. Segnalo di Beppe Severnini su Corriere della Sera: bivacchi e tuffi nelle fontane perché i turisti stranieri non ci prendono sul serio. Le vacanze sregolate da Venezia a Roma. C'è anche un articolo proprio che riguarda invece Firenze, appunto c'è invece quello di cui stavamo parlando con Ivana. L'altra parte è questa abolizione del Senato non elettivo. Nel giornale, ma anche in altri quotidiani, si segnalano quelle che sono state le proteste di questi giorni, soprattutto del Movimento 5 Stelle: agguati, liti e scontri campali. Così muore il Senato di Cesare. Ricordiamo che oggi ci sarà il primo sì anche su Repubblica. I senatori si aboliscono tra urle, bavagli, pianisti, trolley pronti per le ferie. Il sollevo di chiudere una riforma in cui fanno la fine dei tacchini, i grillini occupano i banchi del governo e volano palline di carta. Alessandra Longo su Repubblica. Segnalo anche vittoria dei commercianti sulla cronaca di Roma del Messaggero: le nuove regole per i tavoli, tavolino selvaggio a Piazza Navona, finalmente è stata raggiunta l'intesa tra comune e ristoratori per un permesso provvisorio. Ecco appunto l'articolo sui vandali, ubriachi e porcelloni, i turisti rottavano, Firenze era di libero. Andiamo alla Gazzetta dello Sport per le ultime notizie. Intanto Marino, il sindaco di Roma, boccia la campagna abbonamenti della Roma, che è una caccia, la caccia ricomincia, unisciti al branco. Sappiamo che il simbolo della Roma è il lupo, dice: il termine branco fa pensare alla violenza. Insomma, pure Marino. Abbiamo il decreto Alfano per i violenti da stadio, sempre sulla Gazzetta dello Sport: li tratteremo come mafiosi. Prevenzione, Daspo di gruppo, lotta al razzismo, vogliamo ridare finalmente gli stadi alle famiglie. Ci sta anche sempre sulla Gazzetta dello Sport il titolo: il Milan si sveglia. E poi ovviamente tutte le novità del caso Tavecchio. Vi segnalo per ultimissimo un editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, ovviamente contro il Premier Matteo Renzi. È tutto per questa rassegna stampa. Un ringraziamento a Valerio Rocchetti in regia. Io do la linea al giornale radio e poi ad Irene Zerbini. Un saluto da Elisabetta Fiorito.